Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Si fa tanto parlare di automobile elettrica. Solo negli ultimi mesi sono almeno due, Mercedes e Renault, le case automobilistiche che hanno annunciato la commercializzazione dei loro primi modelli elettrici. Ed è indiscutibile che passi avanti se ne sono fatti su questo terreno. Tuttavia, l'auto elettrica è ancora lontana dall'essere in grado di fornire agli utenti una soluzione alternativa a quella tradizionale. Se per alternativo intendiamo un mezzo di trasporto che va a energia elettrica, ma in fondo ha lo stesso rapporto costo-prestazione. Un costo simile e delle prestazioni simili. A fare difetto a questi mezzi e le auto elettriche, oltre al costo che è ancora piuttosto elevato, è soprattutto l'autonomia. Insomma, l'utente medio italiano perlomeno non accetta facilmente l'idea di un'automobile con 150 km, 200 km di autonomia che magari richiede qualche ora per fare il pieno, tra virgolette. Ben diversa invece è la situazione se guardiamo agli scooter, alle moto e ai motorini. Me l'ho fatto notare qualche giorno fa con un appello anche accorato, un ascoltatore che assieme ad alcuni amici ha fondato un'azienda impegnata proprio a promuovere la mobilità elettrica su due ruote. Non facciamo il nome della società per non fare pubblicità, ma diamo il benvenuto a Renzo Gasparella. Buonasera Gasparella. Buonasera e saluti a tutti quanti. Duca Gasparella, perché secondo lei, se ancora non è il momento dell'automobile elettrica, invece è il momento della moto elettrica, della due ruote elettrica? Semplicemente perché rispetto alla macchina elettrica, allo scooter e alla moto elettrica, normalmente si chiedono prestazioni che sono molto più simili a quelli che chiedevamo ai nostri ciclomotori a benzina, che non percorrevano mai più di 50 km al giorno. Si usano per andare al lavoro, per andare a scuola, per fare circuiti cittadini abbastanza circoscritti, e questo quindi creava delle autonomie compatibili con l'offerta dell'elettrico. Insomma, lei dice, di un motorino che ha anche 200 km di autonomia, in fondo io non me ne faccio niente, perché tanto in un giorno non li farò mai 200 km su un motorino, mentre in automobile 4-5 come se capita di farli. Ecco, però dal punto di vista dei costi? Le moto elettriche, parliamo di ciclomotori, vanno al pubblico sotto i 2.000 euro, che sono più o meno i costi di un equivalente termico di buona qualità fabbricato in Italia. Ecco, questi 2.000 euro servono per comprare che cosa? Provi a farci uno spot, diciamo, del scooter medio elettrico per 2.000 euro. Stiamo parlando di un ciclomotore, quindi limitato a 45 km all'ora di velocità, equipaggiato con delle batterie a silicone gel, che è una tecnologia sviluppata rispetto alle vecchie batterie al piombo. Certo. E che permettono un'autonomia, diciamo, di circa 50 km. D'accordo, d'accordo. E in quanto tempo si ricaricano? Quando si ricarica dipende da quanto si è svuotata. Se sono completamente vuote, diciamo che ci vogliono circa 4 ore. D'accordo. E i consumi di questi mezzi? Allora, una carica completa del gruppo batterie, diciamo che varia dall'1,5 ai 2,5 kWh, che al prezzo dell'uso domestico che si fa oggi nelle case italiane sono più o meno, diciamo, dei 20 ai 30 centesimi. Ecco, con questi 30 centesimi ci si fanno, mi ha detto, 50 km. Senta, però ci sono anche dei modelli, diciamo, un po' più grandicelli, no? L'equivalente di un 125. Adesso abbiamo parlato di ciclomotori, sì. E i ciclomotori di solito usano motori non molto potenti, diciamo fino a circa 2000 watt di potenza. Dai 3000 watt in su, diciamo, si superano i 45 km all'ora, che sono il limite del ciclomotore, e si arriva ad avere potenze anche di 6000 watt che portano la moto oltre i 100 km all'ora. Ecco, e anche qui siamo su delle cifre ragionevoli come costo, cioè modelli più avanzati come questi sono sempre paragonabili per costi all'equivalente di buona qualità di una motorizzazione tradizionale? Diciamo che per avere una moto equiparata a un 125, che diciamo ha una velocità di punta non lontana dai 100 km all'ora, e che ha un'ottantina di chilometri di autonomia, sì, se usata in ciclo urbano, stiamo parlando di una cifra che è compresa tra i 4.500 e i 5.000 euro. Perfetto, così è chiarissimo. E anche per quanto riguarda i consumi, queste moto elettriche sono competitive. Questi 70 chilometri, 80 chilometri, quanto ci costano? Un numero. 30 centesimi direi. Sempre 30, 40, fossero anche 50 va sempre bene. Senta, incentivi ce ne sono per chi acquista questi mezzi? Non c'è niente di nazionale, c'è stato qualche volta degli interventi, diciamo, abbastanza spot, localizzati nel tempo, esistono delle amministrazioni, dei comuni, per esempio come Firenze o Reggio Emilia, Parma, ci sono delle regioni che ci sono mosse in questo senso, in particolare a Lombardia, sì. Ci sono delle province virtuose, la provincia di Trento, però purtroppo manca una visione complessiva del problema, sarebbe bello che ci fosse un progetto nazionale. Un progetto nazionale un po' più, certo, un po' più complessivo, anche per attivare delle ricadute di tipo industriale, eccetera, eccetera. Ecco, però a proposito di industria, sbaglio, arrivano tutti dalla Cina queste moto elettriche? La tecnologia di punta in questo momento è cinese. Shanghai, che è una città di grandi dimensioni, certo. Ci sono circa 1,5 milioni di moto elettriche che girano per la strada e diciamo che la quasi totale mobilità privata si fonda su questo mezzo. Sullo scooter elettrico. Ovviamente i mezzi pubblici, esistono i taxi. Ecco, insomma, parliamo, se ricordo bene, un dato che citava prima quando ci siamo sentiti, 100 milioni di veicoli elettrici in tutta la Cina, anche se magari con prestazioni ridotte, che noi, come dire, non vorremmo, però 100 milioni è veramente un numero impressionante. Invece in Italia mi pare che le cose non vadano tanto bene, anche degli incentivi non sempre i cittadini italiani hanno approfittato. Manca probabilmente da parte delle amministrazioni, che in qualche modo devono accompagnare questa nuova tecnologia, non tanto secondo me da un punto di vista dell'incentivo, che è importante ma non è l'elemento nodale. Non è decisivo, ma perché questi mezzi convengono economicamente per il poco che costano poi mantenerli e farli andare anche senza incentivi. Esattamente, è giusto? Cioè, se tu dai una corretta informazione, a prescindere dalla questione ecologica, perché comunque sono mezzi che non inquinano, non fanno emissioni, non fanno rumore e quindi permettono per esempio di andare a circolare nei giorni di blocco del traffico, ma a prescindere da tutto questo, sono veramente buoni affari economicamente. Grazie Gasparella. È stato un piacere. Ricordiamo anche che per i primi 5 anni non si paga il bollo sui veicoli elettrici e che molte assicurazioni offrono premi assicurativi dimezzati per questi mezzi. È tutto, a domani.